Italia in controluce. È la nuova settimana di Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 in due edizioni sulla cronaca italiana. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Lo Stato riconosce un risarcimento milionario alla famiglia di Federico Aldrovrandi. Un segnale importante nel quinto anniversario dell'uccisione dello studente durante un controllo di polizia il 25 settembre 2005 a Ferrara. Anna Marino ha intervistato per Italia in controluce Patrizia Moretti Aldrovrandi, madre di Federico. La proposta è scaturita dallo Stato, dal Ministero dell'Interno, tra l'altro non era nemmeno parte in causa lo Stato stesso. Abbiamo sempre sostenuto che la responsabilità ovviamente individuale di quei quattro agenti, eppure lo Stato si è fatto carico della parte civile, diciamo, di questo processo, di tutto quanto, e credo che sia un segnale molto molto positivo. Lo Stato ha riconosciuto la responsabilità degli agenti e ha voluto concludere la causa civile prima ancora che sia conclusa quella penale, quindi credo che sia veramente una manifestazione di vicinanza alla famiglia molto importante. È una cosa abbastanza inedita, nuova, ed è soprattutto un accordo. Voi comunque avete detto che andrete lo stesso in appello. Ma sì, non potremo essere rappresentati dai nostri avvocati, perché essendosi conclusa, diciamo, la parte civile, noi saremo lì come pubblico, ma sicuramente una cosa del genere non si può mai concludere. La vita di mio figlio è purtroppo la perdita che è insanabile, quindi seguiremo molto molto da vicino sicuramente anche tutte le altre fasi processuali. Penso che ci sarà l'appello e poi sicuramente, suppongo, ci sarà anche il terzo grado, quindi noi saremo sempre assolutamente presenti. E aspetterete che si compia il processo? Certamente, sì. La parte penale è prevista a Bologna nel maggio 2011. E per quanto riguarda la fondazione per le vittime in fase di costituzione? Abbiamo pensato una associazione. La proposta è venuta da me e dalle altre famiglie che erano presenti il 25 settembre a Ferrara, il quinto anniversario della morte di mio figlio. In quel momento ci siamo resi conto di essere un'unione di fatto, in realtà, cioè di essere comunque molto vicini e che insieme si può avere più voce, si possono ottenere dei risultati e soprattutto avere una visibilità maggiore, che credo sia quella che è il grossissimo problema che le famiglie che hanno subito questo tipo di tragedie si trovano a dover affrontare da subito. E quindi questo risarcimento è anche un segnale per altre famiglie? È un punto di partenza, cioè il fatto che per noi si sia già definita la prima fase della causa penale, cioè il processo di primo grado, c'è stata anche la definizione della parte civile, ci sono ancora gli altri gradi di giudizio, ma si sta andando avanti, questo è importante. Lo Stato intende fare qualcosa, cioè prevenire tragedie di questo tipo, e quindi penso che insieme possiamo costruire veramente molto. Italia in controluce. La seconda traccia di Italia in controluce ci porta in Basilicata, proprio alla ricerca dei luoghi del film Basilicata Coast to Coast con Rocco Papaleo. Gennaro Grimolizzi ha ripercorso tutto questo itinerario. Basilicata, però l'unica regione italiana non peninsulare bagnata da due mari, Tirreno e Ionio. L'unica regione italiana con due nomi, Basilicata, appunto, e Lucania. Il successo del film di Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast, ha reso omaggio ad una terra dalla natura quasi incontaminata e dalla storia millenaria. Una regione negli ultimi anni finita sotto i riflettori delle indagini del PM anglo-napoletano Henry John Woodcock e per le vicende legate alla tragica fine di Elisa Claps. Ma la Basilicata è soprattutto località incantevoli. Nella metà dell'Ottocento fu meta privilegiata di tanti scrittori nordeuropei. L'inglese Edward Lear scrisse Viaggio in Basilicata. A distanza di un secolo e mezzo è stato pubblicato un libro con lo stesso titolo. Gli autori, Anna Teresa Rondinella e Antonio Riviello, individuano 10 itinerari per scoprire gli angoli più belli della regione. Antonio Riviello rivolge prima di tutto un invito a non perdersi le bellezze naturalistiche. In Basilicata ci sono due parchi, il Parco della Val d'Agri, che è famosa non soltanto per le estrazioni petrolifere, ma per un comprensorio territoriale molto molto bello, dal Monte Volturino al Monte Raparo. Ci sono anche dei sentieri che tra l'altro usufruibili, quindi c'è una full immersion nella natura. Da qualche anno c'è anche un turismo per i più temerari, come il volo dell'angelo. Attaccati a un cavo d'acciaio si può volare da un picco roccioso all'altro, da Pietra Pertosa al paese di Castelmezzano. C'è anche il parco dei Calanchi, che è veramente suggestivo, con queste ferite nell'argilla bianca, andando da Ersina a Rottole, a Montalbano. Non solo gli scenari mozzafiato offerti dal mare e dalla montagna di Maratea. Il nostro viaggio per raggiungere la costa ionica parte dall'area nord della provincia di Potenza, ai confini con Puglia e Campania, dove spicca il Monte Vulture, scelto in piena guerra fredda dalla NATO come stazione di collegamento per l'intero Mediterraneo e dalla cui sommità è possibile vedere tanto il Golfo di Napoli quanto il Gargano. Melfi è la città simbolo del Vulture. Fu una delle sedi principali dell'imperatore Federico II. Qui si trova uno dei principali stabilimenti della Fiat. All'inizio degli anni 90, fiore all'occhiello del Lingotto, oggi luogo in cui si concentrano non poche tensioni tra lavoratori ed azienda, con la conseguente crisi del concetto di fabbrica integrata. La Basilicata è da sempre terra di ospitalità. Venosa, città natale del poeta latino Orazio, ne è una testimonianza, come evidenzia Anna Teresa Rondinella. Le testimonianze che abbiamo a Venosa sono certamente molteplici, che testimoniano tutta la presenza della storia dell'uomo, partendo naturalmente dagli antipodi, per poi attraversare quelle che sono le vestigia più facilmente riconoscibili di età romana. E poi direi che la straordinarietà di questa città restano indubbiamente le catacombe ebraico-cristiane, perché esse rappresentano un apex assoluto nel panorama figurativo internazionale. I lucani tendono più a raggiungere le regioni limitrofe piuttosto che dirigersi all'interno del loro territorio. La causa è delle infrastrutture carenti. L'asse viario Bradanica dovrebbe collegare la provincia di Potenza con quella di Matera. I cantieri sono ancora aperti e per raggiungere la città dei Sassi bisogna affidarsi alla viabilità interna di quasi un secolo fa. Prima di raggiungere Matera, una tappa obbligata è Ersina. Il borgo ospita nel Duomo la statua di Sant'Eufemia, testimonianza del Mantegna in Lucania. L'autrice di Viaggio in Basilicata ci descrive l'opera d'arte. Scritto anche nel volume un gioiello straordinario e una statua sulla quale tuttora molti studiosi nutrono dubbi sulla attribuzione, ma da quello che siamo venuti a sapere noi, nonostante questa per taluni resta un'opera mediatica, perché sappiamo bene che il Mantegna non ha mai realizzato nel suo corpus di opere, non ha mai realizzato una statua oltretutto lignea come quella che abbiamo appunto a Ersina. Tuttavia resta appunto un mistero che ci affascina sempre più. Un altro piccolo sforzo tra curve e calanchi e si giunge a Matera, che ambisce a diventare la capitale europea della cultura nel 2019. Sicuramente la città che rappresenta la nostra regione come patrimonio inalienabile dell'umanità, da vergogna nazionale, è stata per l'appunto portata poi a questo riconoscimento, un riconoscimento che è significato soprattutto per il nostro popolo un ribaltamento direi totale, assoluto, perché la capitale dei contadini è divenuta qualcosa da tutelare, da salvaguardare. Le testimonianze della storia millenaria si rinvengono sulla costa ionica. A Metaponto, culla della Magna Grecia, ci fu una delle scuole di Pitagora. Il viaggio in Basilicata, attraversando le due province lucane, è un'esperienza da provare. È un'esperienza indimenticabile. Era la seconda edizione in Italia in Controluce. Vi ricordo, radio24.it è il nostro sito dove potete scaricare via podcast oppure semplicemente ascoltare tutte le puntate per comunicare con noi il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, controluce@radio24.it. A domani alle 6.30.